Allora, benvenuti a tutte e a tutti qui lo zio Fred da Amsterdam. E fatemi sapere se mi state sentendo abbastanza bene. Io nel frattempo aggiusto i volumi. Chiaramente avevo preparato molto bene la trasmissione e infatti è saltato tutto. E ho dovuto cambiare il computer. Non fa niente, poco male. Spero che ci siate, spero che siate in tanti ad ascoltarmi tra adesso e quando partirà la registrazione. E controlliamo un po'. Ho dovuto staccare, mi sa, la chat degli ascoltatori, ma non fa niente, tanto mi dovreste sentire nel flow normale della trasmissione. Bene, l'occasione per fare questo approfondimento oggi, così un po' sui generis in radio, che vi volevo raccontare di un nuovo sviluppo della nostra piattaforma di radio e di associazionismo volontario orizzontale e anarcoide. Perché c'è una possibilità che corrisponde a quanto molti di noi hanno cercato di mettere su in questi anni, lavorando con la radio, e che non era proprio facile da fare né possibile. Tant'è che in particolare uno di noi, Vittorio Vic il Cino, ha anche provato a fare delle donazioni alla radio. Che ha fatto, ma noi non avevamo alcun modo qualche anno fa di metterci d'accordo su come usare questo denaro e che quindi non l'abbiamo usato. In un'altra occasione invece abbiamo fatto una colletta, abbiamo raccolto qualche soldo per mantenere la nostra presenza online, ma una delle cose emerse un po' come volontà di tanti, ma come anche impossibilità di organizzarci, è stato di creare del lavoro o degli eventi più grossi, usando anche la possibilità di impegnare la struttura della radio. Ecco, questa cosa qui potrebbe essere cambiata da questi nuovi sviluppi della piattaforma che usiamo di più per comunicare, che poi è Telegram. Allora, questa è la premessa. Adesso vi voglio raccontare tutto. Certo, le mie S sibilano in maniera orribile, quindi magari equalizzo un po' e nel frattempo magari vi metto una traccetta, se la trovo, perché il computer ovviamente non è pronto. Così mi do il tempo di, come si dice, di aggiustare la questione qua. Allora, vediamo un po', una traccia a caso che vi possa fare felici. E nel frattempo io cerco di equalizzare un po' meglio la voce e poi di raccontarvi, bene, di che si tratta questa cosa qui. Che, ripeto, potrebbe metterci in condizione di autonomamente organizzare delle cose anche con il collettivo, con il contributo della radio e tirar fuori delle risorse da suddividere tra chi lavora e alla radio senza né commettere delle cose che sono non possibili legalmente, sia possibilmente senza crearci problemi, ecco, problemi di gestione, di rischio, di gestione di soldi, di trasparenza. Quindi vediamo un po' se questa cosa poi funzionerà oppure no. Nel frattempo vi metto una traccetta, ecco, una traccetta. Questi sono dei busker che sono diventati famosi come busker, si chiamano The Big Push e suonano per strada. Eccoli qua. Ok. down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. All those things are awful and cold. Talking about my generation. Ok, ragazzi e ragazze, bando le ciance. Sfumo un pochettino The Big Push che cantano gli Who e vi comincio a raccontare di cosa si tratterà oggi. Dunque, parlerò di tre cose fondamentalmente. Uno, di questa possibilità di usare internamente a Telegram un wallet con, su cui mettere dei soldi e con cui passarsi dei soldi, e dei token che si possono generare, che non sono i soldi del wallet ma sono per esempio la moneta di Trasformatorio o la moneta in questo caso di Radio Antidoto. Poi parlerò in modo molto chiaro, spero di riuscire a essere molto chiaro, alcuni esempi di uso che escono fuori dalle cose che sono già successe tra di noi, le occasioni che si sono presentate. E prima di tutto vorrei un attimo fare il punto su cosa abbiamo messo su per Radio Antidoto, cioè qual è la nostra piattaforma, ecco, come si chiama. Per tirarsi le pose, molto spesso in ambito professionale si parla di piattaforme di comunicazione. Allora, noi cosa abbiamo già? Ok, noi abbiamo un server radio che non è nostro, ma è, diciamo, a nostra disposizione, che può reggere moltissime connessioni, e questo lo sappiamo, che ci permette di trasmettere quello che vogliamo senza censura, e questo lo sappiamo, che ci permette di usare musica protetta da copyright fregandocene, e questo lo sappiamo, ma è delicato. La seconda cosa che abbiamo messo su è un bel sito internet, dei begli archivi. Il sito internet ci costa circa, diciamo, l'ultima volta abbiamo contribuito per un'ottantina di euro l'anno, il nome ne costa una ventina, e quindi sui 100 euro l'anno abbiamo un sito web e un nome. Questo sito web anche ci permette di pubblicare i nostri contenuti come podcast e di automaticamente mandarli per conoscenza a varie piattaforme di distribuzione di podcast, un po' a cascata, immaginatevi la cascata. Io pubblico qualcosa come podcast e Google lo sa, Apple Music lo sa, tante altre piattaforme lo sanno, per cui si perde tranquillamente in una miriade di possibili posti dove la gente potrebbe trovarlo. Un'altra cosa che abbiamo sistemato negli anni attorno alla nostra iniziativa è tutta una serie di social, cioè tutta una serie di collegamenti social più o meno organizzati, più o meno auto-organizzati, che passano da YouTube, Facebook, YouTube perché abbiamo dei video, c'è un canale YouTube, c'è un canale Instagram, c'è un canale Facebook, una pagina Facebook e una chat su WhatsApp che non usa nessuno, una chat su Telegram, che anzi su Telegram ne abbiamo due, Blackstage e Ascoltatori, e un canale, diciamo, uno a molti, che è Shoutbox, che sta sempre su Telegram, quindi sono tre, ecco. In più il nostro archivio è un po' disorganizzato, un po', non dovrei dire disorganizzato, ma auto-organizzato su archive.org, quindi anche rintracciabile e ritrovabile da chi usasse archive.org, che è uno dei posti free più importanti per l'open culture internazionale, quindi è un buon posto dove mettere le cose. I nostri contenuti sono distribuiti con licenza aperta, chiunque li può usare per fini non commerciali, diciamo noi, ma in fin dei conti chi è che ci fa dulire con i nostri contenuti? Nessuno. Sono quasi 4 anni, anzi sono 4 anni che trasmettiamo. Non abbiamo fatto neanche la festa dei 4 anni, perché siamo rimasti pochini. Il 10 di marzo del 20, come vi ricorderete, abbiamo cominciato a trasmettere e da allora non ci siamo mai fermati. Abbiamo raccolto persone, alcune persone hanno prodotto dei bellissimi contenuti anche ispirati da Radio Antidoto, e ogni tanto alcuni di noi tornano, alcuni di noi vanno. La cosa che non è riuscita è stata, diciamo, di fare il passetto e cominciare a raggiungere degli ascoltatori. Perché questo non è successo? Beh, per tanti motivi, soprattutto il fatto che non fosse proprio ciò che volevamo. Ci abbiamo provato un po' di volte a parlare di questa cosa. In fin dei conti, secondo me, non era proprio nell'idea iniziale di Radio Antidoto di essere un antidoto che si ascolta, ma quanto più un antidoto che si fa. E questo fare ci ha preso la mano, diciamo. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude, di belle e di bellissime, di meno belle e meno interessanti, però a distanza di anni la radio è ancora qui. Cosa è successo nel frattempo? Vabbè, io, come sapete, ho lavorato molto tempo con le monete complementari, con le idee di usare la decentralizzazione per fare cooperativismo, eccetera, eccetera, anche con la parte tecnica. E quest'estate ho provato, non ha funzionato affatto, a tokenizzare una moneta di trasformatorio per poter fare un prefinanziamento, un finanziamento e un controllo di trasformatorio. Non ha funzionato per tanti motivi, non è, diciamo, colpa di nessuno, era semplicemente troppo ambizioso per come poi dopo si è messo la questione del trasformatore l'anno scorso, del laboratorio. Però devo dire che uno dei motivi per cui era difficilissimo far sì che la gente entrasse dentro il meccanismo era proprio il bisogno di fargli scaricare da internet un'app, fare la chiave segreta, seguirli mentre prendono la prima volta dei soldi e li mettono sul loro portafoglio virtuale, spiegare che è abbastanza sicuro, insomma, era un casino ed era molto difficile convincere le persone che magari hanno da fare, la cui attenzione è limitata, che fosse una cosa utile. Quindi non si poteva fare. La catena che avevo pensato di usare era, mi sembra, aspetta, come si chiama? Fammi vedere. All'epoca facemmo tutto usando, come cavolo si chiama la catena? Vabbè, non mi ricordo. Comunque, una di queste catene che, non usando una prova, non usano energia, diciamo, in modo esplosivo come Bitcoin, sono abbastanza green e permettono di fare contratti e varie cose che sono un po' tecniche da spiegare, che comunque qui al momento non ci interessano. La novità è che da 6-7 mesi il progetto che sta dietro a Telegram ha cominciato a implementare una moneta complementare loro su una loro blockchain molto aperta, che ha vari requisiti per avere successo, considerando anche che Telegram ha quasi 1 miliardo di utenti, quindi sono tanti, e sta tirando su vari modi di usare questa catena direttamente da Telegram. Allora, che significa? Che sul vostro canale con cui interagite con la radio avete un wallet, potete accenderlo e caricarci dei soldi come su una carta prepagata e usarli in moneta virtuale TON per pagare delle cose. Ok, questa è una cosa. La seconda cosa che puoi fare, puoi creare una moneta tua, il Vittorio o il Federico, o in questo caso il Radio Antidoto, e usarlo, scambiartelo con altre persone. Ok, ora vediamo un pochettino come questa cosa, quanto costa e come si può usare per fare alcune cose che non abbiamo potuto fare ma che avremmo potuto fare. Allora, prima di entrare dentro questa cosa, mi bevo un bicchiere d'acqua e vi faccio sentire un pezzettino di musica, perché così aspetta che ci posso mettere, vi faccio mettere qualcosa, non me l'ho preparato quasi nulla a dire il vero, però ecco, vi metto un po' di musica allegrotta, ma ok, e ci sentiamo tra un minuto. Intanto prendo un bicchiere d'acqua perché la cosa si fa interessante ma anche un po' complicata, abbiate pazienza. Sempre il vostro amico Federico, e andiamo un attimo a vedere, come promesso, le cose che abbiamo e le cose che ci potrebbero aiutare di questa possibilità di scambiarsi soldi con terzi, non soltanto tra di noi, usando Telegram. Allora, grazie per avermi seguito fino a qui, entriamo nel vivo della questione. Allora, Radio Antidoto è un'iniziativa supportata, nostra diciamo, non ha padroni, però è supportata dalla Fondazione Trasformatorio, che ha una sede legale e un'organizzazione assolutamente legale qui in Olanda. Trasformatorio, tramite me che lo dirigo, si piglia un po' di responsabilità, pochissime, e comunque ha anche azionato un acconto bancario a mio nome, su cui ci sono i soldi che sono stati donati per Trasformatorio, quello che è rimasto. È un conto bancario su cui ci sono circa un centinaio di euro di Trasformatorio, sotto un indice che ho scritto Radio Antidoto. Ok, allora, uno dei miei problemi è che non posso essere assolutamente totalmente trasparente su questa cosa, perché dovreste essere parte di Revolut e quindi vedere come uso i soldi. Vi dovete fidare di me, ma finora con 100 euro ci fidiamo tutti. Ok, non c'è neanche bisogno di dirlo, sono 100 euro. Se fossero 10.000, però, io avrei dei problemi. Vorrei che voi vi fidaste non di me, ma di dei conti aperti, cioè di qualcosa che potete vedere e non è una cosa troppo banale, anche perché dal punto di vista fiscale 10.000 euro sarebbero parecchi, eh? Qui diciamo c'è questa forchetta, 100 euro ok, 10.000 un problema, in più la rendicontazione di un numero di euro non è banale, cioè devo far vedere gli scontrini, devo far vedere come sono usciti, perché eccetera eccetera, non soltanto a voi amici ma anche alle tasse, le tasse olandesi, e fin qui penso che ci siamo capiti, tutto a posto. Allora, spostare i denari, le risorse di Radio Antidoto su un wallet, su una blockchain, significa che non abbiamo bisogno della banca, cioè tutti voi potete sapere come sono stati usati questi soldi semplicemente guardando la blockchain, guardando il wallet. Ok, questa è una possibilità, è interessante, ma possiamo dire tendenzialmente non è che c'è stessa esigenza, nel senso che non ci sono i soldi, non c'è il lavoro, non è un grosso problema. Ok, vediamo un po' se c'è del problema sul lavoro. Prendiamo un esempio che è già successo. Abbiamo un'attività, per esempio una raccolta di fondi o una festa, oppure un qualcuno che ci voglia sponsorizzare, uno di noi, no? Potrebbe essere in Germania, potrebbe essere in Sicilia, potrebbe essere in Piemonte, potrebbe essere qui ad Amsterdam. Cioè, uno di noi gli viene offerto di fare il DJ, il radio DJ per un'iniziativa. Ok. È successo per esempio che si fosse fatto un corso, Vittorio fa un corso di come fare radio, coinvolge tutta una serie di persone e la cosa poi rimane lì perché comunque è un'iniziativa di Vittorio, c'è quell'energia lì, quel momento, e poi la cosa decade perché ve lo chiedo a voi, comunque decade, funziona così. Allora, un'attività raccolta fondi, immaginiamo di fare la raccolta fondi su Telegram direttamente, no? Tutti i fondi che vengono raccolti non solo si vede che vengono sul wallet dell'iniziativa o di chi la fa, ma anche dove vanno, e quindi è trasparente per chi fa la raccolta di fondi. Fatti conto che c'è un 20% che va da una parte e un 30% che va da un'altra parte. Quindi si può fare un wallet della causa, diciamo, questo wallet della causa può pagare delle spese vive, c'è una garanzia e la decisione sui fondi può essere presa secondo uno schema stabilito a priori. Ora, secondo me c'è sempre un principio di frizione necessario quando si allarga un cerchio di fiducia, per esempio Radio Antidoto, a un'altra iniziativa che si comincia a conoscere e poi si conoscerà, con cui si collabora. Fatti conto una proloco o un negozio, no? Uno di noi ci parla, racconta agli altri, poi vengono fatte delle operazioni, presi dei soldi, generato un valore e poi non si sa bene, non si ha visibilità, no? Neanche la si vuole in genere. Però se cominciano ad esserci più soldi, più movimenti, eccetera, bisogna prendere delle decisioni, magari assieme, magari c'è qualcuno che è meno felice, che ne so, il nome della radio venga collegato con un'altra iniziativa non proprio conosciuta, che magari non è neanche nelle nostre corde, no? Poi ci sta un altro problema in queste iniziative anche di sussistenza o per aiutare una causa, che chi prende del lavoro come su di sé come volontario, è difficile che abbia poi qualcosa che fa vedere che ha lavorato come volontario, qualcosa in cambio del suo plus valore, del valore del suo contributo, no? Qualcosa che rimanga. Sì, magari mi dai la maglietta gratis, mi ringrazi e mi abbracci, però di questa cosa non rimane nessuna traccia. Quindi ecco, l'avere tutto questo su un canale magari anche apposito di Telegram fa sì che invece la comunicazione sia registrata, sia visibile a tutti, si possano fare dei token da dare ai volontari che rappresentano la compensazione per il loro contributo, per esempio. Si possono far girare i soldi da wallet conosciuti, che tra l'altro possono essere vincolati tecnologicamente in maniera abbastanza semplice al consenso di 3, 4, 5 persone, cioè non c'è bisogno che tutti diano il consenso, però si può fare un wallet in cui i soldi possono entrare ma non possono uscire se non c'è l'accordo di almeno 3 persone che firmano elettronicamente, no? O 2 persone o 3 persone. Questo è un grosso vantaggio se stai trattando per esempio con una proloco o con una semplice entità esterna, o 2 o 3, perché in questo caso si prende un rappresentante di ogni entità, si ha una scusa per fare degli accordi non solo sulla fiducia con una stretta di mano, ma anche secondo un piano preciso, visibile a tutti, e poi in maniera molto trasparente ridistribuire le risorse. Questo mi sembra una cosa interessante, perché il sistema di comunicazione e il sistema di pagamento sono integrati, e secondo me entro poco tempo tutti saranno abituati a pagare con la loro app, o a caricare o accettare dei denari in base a ciò che succede dentro il loro canale di fiducia. Quindi questa può essere una cosa interessante. Allora, ricapitolando, si può fare da dentro Telegram e sempre più persone impareranno a farlo. Le monete TON possono essere comprate e scambiate in maniera abbastanza semplice, e hanno anche un valore che cresce in questo momento nel tempo, può diminuire, ma insomma stanno intorno ai 4 euro al momento l'uno, e scambiarseli ha un costo che si paga al momento dello scambio, cioè compri il TON, ti viene sul tuo wallet, quando vuoi fare un'operazione ti viene scaricato una percentuale di questo TON, che è fissa, non dipende dall'ammontare dell'operazione, quindi per i micropagamenti non è proprio piccola, è una quantità di TON abbastanza ovvia, costa più o meno 10, 15, 20 centesimi di euro a transazione, che sono tanti ancora, quindi ci sono dei controvalori. Ora andiamo a vedere questo per i TON. Se io creo una moneta radio antidoto, un gettone, lo posso usare per tutte le cose che hanno in genere uno scambio in gettone. Per esempio, nella sagra della porchetta posso vendere un gettone che rappresenta un panino della piccola porchetta e un bicchiere di vino, sono 10 euro, e lo so io che sono 10 euro. Ok, te lo do al costo di darti il gettone, e tu ti presenti al banco della porchetta, dai il gettone e ti viene dato un bicchiere di vino e un panino con la porchetta. Non è un sistema perfetto, perché ti devi fidare tra di te, tra quello che fa la porchetta, quello che lo porta, che il gettone non vengano dati troppo gettoni senza i soldi, bisogna fare un bilancio alla fine tra i gettoni e i soldi, insomma, complicato. In questo modo la complicazione scompare, perché tutto può essere costruito in modo da essere automaticamente fatto, ed è interessante. Ora prendiamo un altro esempio, l'esempio della festa. Allora, questo mi è caro, perché supponiamo di voler fare una festa con un centinaio di persone, quindi una festicciola. Ci abbiamo un posto che metti Vittorio, ci mette il posto, io ci metto 200 euro per comprare da bere, ci sono 5 o 6 volontari che vengono a dare una mano a sistemare il posto, c'è qualcuno che fa la decorazione, c'è chi porta la musica, quindi ognuno di noi mette qualche cosa per far sì che questa festa ci sia. Questo qualcosa ha un valore, cioè se andassimo sul mercato a prenderlo avrebbe un costo, ma noi non abbiamo i soldi per tutti i costi, quindi ognuno di noi mette qualche cosa. Possiamo dire che se però vogliamo fare il conto di cosa abbiamo messo, di quanto abbiamo contribuito alla festa, possiamo facilmente dire a priori, va bene, ok, fare tutta la festa, questo è quello che serve, questo è quanto costa, chi ce lo mette ha investito quel qualcosa, per esempio sullo stereo, diciamo, sulla musica, costa il DJ, costa 150 al giorno, ok, la serata il DJ costa 150 euro. Abbiamo chi lo fa volontario? Sì, allora si prende 150 token, per esempio, no? O 15 token, diciamo, facciamo dei token da 10 euro. E lo fa gratis, però si prende i token, con cui poi magari compra il panino con la porchetta, ok? Cioè, siamo capiti come possono essere usati i token. Alla fine, supponiamo che abbiamo fatto 10 feste con questo sistema, avremo tutta una serie di persone che avranno ancora dei token, no? E che potranno, per esempio, in virtù dei token che hanno, di quanto hanno lavorato al bene comune, possono o avere dei dividendi, in quel caso ogni token viene pagato con quello che c'è in cassa, oppure decidere che con quei token vogliono fare, finanziare un progetto che gli sta a cuore, per esempio fare della beneficenza. Puoi creare una dinamica in cui, mettendo assieme delle persone che sono amici tuoi con delle persone che non conosci, con delle persone che semplicemente contribuiscono, in maniera molto trasparente hai creato anche un sistema di decisione riguardo all'uso di dei fondi che hai accumulato in maniera trasparente. Ecco, questi sono i vantaggi, secondo me, di un sistema di questo tipo. Adesso vi passo un altro pezzetto e poi vi spiego come questa cosa può, diciamo, espandersi nel caso di Radio Antidoto. Ora, se avete domande, curiosità o cose da dire, potete farlo sulla chat ascoltatori, perché non riesco a passarvi in voce su questo setup del computer, e lo potete fare a partire da mo. Poi torniamo in diretta e cerco di rispondervi. Eccomi qua, ovviamente mi ero dimenticato di calare, di tirar sul volume, adesso lo devo calare. Comunque, ricapitolando un pochettino l'idea alla base della trasmissione. Allora, ricapitoliamo. C'è la possibilità di scambiarci valori che decidiamo noi, il token, e valori che decide il mondo, il TON, direttamente tramite la struttura che usiamo per comunicare, Telegram. Ok, perfetto. Ora prendiamo un altro caso interessante in cui si potrebbe sviluppare la radio. Allora, la questione della festa che vi ho raccontato prima era una delle questioni che hanno interessato i ragazzi di Piazza Armerina, Giorgio, che ben due volte ci ha proposto di entrare nell'organizzazione di un piccolo festival locale e o di un festival più grande sempre localmente. In questo caso la radio avrebbe fatto l'animazione, diciamo, mediatica del festival, sarebbe stata un po' la scusa per avere un hub di comunicazione, poi social, eccetera eccetera. Diciamo, le cose vengono prodotte in radio e con la radio come supporto e poi distribuite, no? Sui social, facendo nel caso dei social attenzione ovviamente a non mettere materiale coperto da copyright, ma usando la radio in maniera molto più libera. Un'altra occasione successa, va bene, non proprio nel tipo di coso della festa, ma comunque del corso, era il corso di Vittorio, che voleva donarci pure un numero non banale di denaro, che però, non essendoci tra di noi veramente la forza di trovare un'iniziativa per usarlo, la cosa si è arenata. Un altro progetto che è in cantiere da ormai 2 anni, se non sbaglio, sono i gelatini preferiti della Lessu Messina, che è un altro progetto che un pochettino ci ha toccato come radio, anche perché la Mammola è stata una delle DJ, Radio J, più amate da tutti e che comunque penso tutti noi riceviamo i gelatini preferiti. Beh, questa iniziativa editoriale, come tante altre sul territorio, hanno grossissimi problemi di finanziamento, no? È difficile finanziarle perché manca, costa più che mancare la struttura amministrativa che le deve supportare, eh? E se io do il mio pacco con 100 libri, diciamo, o riviste da vendere a 10 persone, dopo devo organizzare la raccolta del denaro, che non è un problema banale, non è facile fare in modo trasparente, e se il denaro è poco, ma anche quando è tanto, se il denaro è poco c'è un problema di fidarsi e di seguire tutti i piccoli pagamenti, se invece è tanto c'è un problema fiscale di fidarsi dei pagamenti, eccetera. Un'altra cosa collegata a queste operazioni sono il modo con cui finanziare qualche operazione sul territorio. Voglio fare, per esempio, rimettere a posto un luogo di aggregazione, no? O organizzare un piccolo trasformatore, un laboratorio in un posto. Ci sono molte persone che vorrebbero contribuire, non sanno bene come. Qualche negozio, per esempio, qualche possibile sponsor che potrebbe mettere qualche soldino, e ho un, diciamo, un impasse iniziale, perché pur essendoci molto, molto interesse da parte di un gruppo di persone e anche voglia di fare, mancano un po' di soldi per comprare le bibite, diciamo. Questi più soldi possono essere messi con un microfinanziamento, cioè ognuno di noi può mettere una quota e questa quota corrisponde a una percentuale della cassa alla fine dell'evento, no? Quindi ci dividiamo il rischio in 3 persone, per esempio, e alla fine dell'evento quello che si è raccolto, per esempio alla fine della festa con il passaggio del cappello, viene ridiviso tra noi del che l'abbiamo finanziato, per esempio, o una percentuale può andare a quello che l'ha finanziato, eh? Allora, sono cose che sembrano un po' noiose, perché si tratta di conti, soldi, eccetera, però permettono di, secondo me, di far sì che un'iniziativa bella, che ha forza, che ha colore, che ha carattere, come tante, non soltanto Radio Antidoto, possa auto-organizzarsi in maniera molto funzionale. Come ultima cosina, che secondo me diventa molto più a portata di ragionamento, se non ancora di fare, è quello di organizzare un'iniziativa culturale sul territorio come associazione culturale. Allora, io faccio un'associazione culturale, costa poco da fare, ha dei vantaggi dal punto di vista fiscale, e la voglio finanziare. Per esempio, potrei dire che faccio ogni mese una festa, in cui presento dei gruppi locali, in cui c'è il DJ set, in cui il posto magari è un posto che ho a disposizione, in cui invitare delle persone e far vedere, far emergere una scena che secondo me c'è, no? Come associazione culturale posso associare le persone che vengono, fino a 700-800 persone l'anno posso associare un'associazione culturale. Può essere rappresentata l'associazione da un token che dura un anno, no? Per l'anno 2024, il token associazione 24, e questo qui corrisponde al tesserino per entrare. Ok, questo mi costa molto poco, è facilmente visibile, può dare per esempio un certo tipo di benefici, può essere vendibile, cioè posso venderlo a una quota, per esempio 10 euro, questa quota va nel wallet che è visibile, che è pubblicato sul mio sito, e automaticamente io so quanto c'è in cassa, per esempio, no? Eccetera eccetera eccetera. Il token può valere, può rappresentare un valore, può essere usato per organizzare un potere decisionale, può aiutarci a tracciare e a far entrare nella nostra organizzazione dei partner che possono anche cambiare durante l'anno, che vogliono supportare magari solo un'iniziativa e non diventare parte di un'associazione. Possono compensare della forza lavoro, possono rappresentare un potere di mediazione, chi ha più token magari ha più responsabilità, o chi ha più token o bisogna avere dei token per far parte dell'associazione. Non è diverso da un qualcosa fatto su carta, fino a un certo punto ovviamente, però è trasparente e costa molto poco rispetto a un'organizzazione fatta su carta, cioè pochi centesimi a transazione non sono i migliaia di euro che costa un'organizzazione che abbia una a contabilità fiscale, no? Costa molto di più alla fine. Ecco, questa era la cosa che vi volevo raccontare, su cui volevo cominciaste un pochettino a ragionare. Ovviamente la nostra graditissima radio oramai probabilmente è un po' fuori gioco, nel senso che non raggiungiamo più un numero sufficiente di persone per dire che siamo attivissimi. Si fanno una decina di ore di programmazione a settimana, però ripeto, la struttura che c'è è una struttura che potrebbe fare tranquillamente la struttura di una radio su web, potrebbe tranquillamente, almeno in alcuni posti, come per esempio penso a Messina e la sua zona, come penso a Ostrum dove è attivo Ansco, potrebbe anche fare delle iniziative in cui si sostiene del lavoro locale e contribuisce a sostenere il lavoro globale, potrebbe fare delle iniziative, aiutare a fare delle iniziative anche con la copertura diciamo amministrativa di trasformatorio per ora, o di una, eventualmente di un'associazione sul territorio con cui il trasformatorio potrebbe collaborare, potrebbe fare e sostenere un gran numero di iniziative, e lo scambio di valori e quindi la contabilità potrebbe essere organizzata in modo molto trasparente, e questo sarebbe un bel come si dice, non risultato, ma un bel esperimento dal mio punto di vista. Bene, sono 46 minuti e 49 secondi, non ho molte proposte da voi di domande o di discussione, penso che molti siano ancora, nonostante sia sabato, impegnatissimi. Io metterò questa mia prima trasmissione, in proposito, questa prima cosa online sul sito, e anche troverete sul sito alcuni schemini e vi stimolo, spero, a provare il wallet su Telegram, buttarci sopra qualche euro, qualche spicciolo, comprandolo magari con la carta bancaria, e vedere un pochettino come funziona. Per i funzionamenti, diciamo, più espliciti, più avanzati, ci vorrà un po', anche la tecnologia è ancora abbastanza nuova, però ci saranno, e pensate, si potrà pagare scansionando un QR code, si potrà, quindi basta mettere un QR code sul tavolino del venditore di porchetta per essere sicuri di poterlo pagare, che dal punto di vista organizzativo è molto meglio di un... immaginate, no? Il registratore di cassa, questo, quello e quell'altro. Noi associamo tutti all'ingresso, la gente paga con la moneta elettronica e abbiamo fatto. Ecco, se arriva la finanza siamo a posto, perché sono tutti associati e non c'è scambio di denaro, perché tutto lo scambio è in mia moneta elettronica. Okay. Come dire, alla fine si rendi conto tutto come se fosse uno, volendo. Comunque, sotto un certo numero di denari la questione non si pone. E vabbè, niente, tutto questo fa sì che fondamentalmente siamo seduti su una miniera che è Radio Antidoto, ma soprattutto la nostra capacità di fare cose, usarne e goderne. Io più che altro sono motivato dall'idea di farne godere molte più persone e dare un pochettino più di spazio alle operazioni che sono sul terreno, e quindi alle operazioni come quella di Ansco, come quella di Vittorio, come quella di Mammoliti, come quella di Giorgio, e tutte le varie persone stanno cercando di capire come fare a far vedere anche altre persone che esistono e che sono bravi a fare le cose che fanno. Un abbraccio a tutti dallo zio Fred e alla prossima.